I fiumi. I fiumi italiani non sono così lunghi come in altri paesi europei, ma sono numerosi, grazie alle piogge abbondanti e alle Alpi, molto ricche di neve e di ghiaccio. Come per i laghi, i fiumi che hanno il maggior volume d'acqua sono al nord. Il maggior fiume italiano, il Po, è lungo 652 chilometri. Le regioni del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e del Veneto sono bagnate dalle acque di questo fiume, che poi sono collegate al mare Adriatico. Il fiume Ticino ha origine in territorio svizzero ed è collegato prima al Lago Maggiore e poi al fiume Po. Il Ticino, come anche i due fiumi lombardi, l'Adda e l'Oglio, sono così ricchi d'acque che in queste zone ci sono grandi centrali elettriche per l'utilizzazione dell'acqua. Il Piave e l'Adige sono altri due importanti fiumi del nord. I fiumi appenninici sono nella parte centrale e meridionale d'Italia. A partire dalla Toscana ci sono fiumi lunghi e ricchi di acque, come l'Arno e il Tevere, che sono molto noti perché sulla loro via verso il mare ci sono rispettivamente le città di Firenze e di Roma. Il fiume Volturno, nel Molise e nella Campania, è il fiume più lungo, 175 chilometri, e più importante dell'Italia meridionale. Un altro fiume importante è il Garigliano, che è lungo 158 chilometri. Questi fiumi hanno origine negli Appennini, dove non ci sono ghiacciai, e dunque sono alimentati solo dalle piogge. Così hanno periodi di grosso volume d'acqua e altri, come in estate, con poca o niente acqua.